Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Una combriccola che non mi piace. Milan e gli altri. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. 9 minuti, siamo qui, Leonardo Manera è in arrivo. Oggi c'era un sole meraviglioso su Milano, c'erano dei colori rosati, poi rossicci sui palazzi e riflettevano questi colori meravigliosi, quindi ho detto: se tanto vi dà tanto, Leonardo Manera oggi sarà con noi insieme a Carmelo Lauricella in regia. Potevi fare l'applauso anche su Manera, sei veramente un egotico insopportabile, è l'uomo più egocentrico che abbia mai conosciuto, Carmelo Lauricella, signori. Veramente di un egoismo incredibile sto Carmelo Lauricella. Lorenzo Nespoli, Emilia Lucchetti ed Elisabetta Fusconi sono in redazione con voi e stando tutti ben distanziati, ma 800 24 00 24, telefonate pure, non c'è rischio di contagio via telefono, e scriveteci 349 238 6666 i vostri WhatsApp, i vostri SMS, i vostri vocali. Siamo qui, non c'è solo il Covid, non c'è solo questo, c'è anche un mondo là fuori che parla e vive di altro. Vai, Carmelo. I will not be easy and it will not be easy. E anche di altro parleremo, eh. Intanto vi ricordo che da 50 giorni esatti ci sono 18 pescatori partiti da Mazara del Vallo, andati a pescare i celeberrimi gamberi rossi che ci invidiano in tutto il mondo, di Mazara, per portarli nelle nostre cucine, e che da 50 giorni sono detenuti a Bengasi, non si sa più nulla di fatto di loro, non possono comunicare a casa. Sono accusati di aver violato le acque internazionali. Ricordo che per questo reato anche in Libia c'è solamente al massimo il sequestro del peschereccio e una multa. Che diavolo sta facendo la Libia con queste 50 persone? Che diavolo fate, per favore? Allora, non c'è solo il Covid, ma vi faccio sentire alcune voci sul Covid e poi parleremo d'altro. Intanto Speranza, sentiamo Speranza, Ministro della Salute. C'è bisogno necessariamente nelle prossime ore di alzare il livello d'attenzione. Questo significa ridurre le occasioni di contagio, significa evitare uscite, spostamenti che non sono necessari e significa anche stare a casa il più possibile. State a casa. La questione, io infatti lo dico, ormai c'è questa storia delle mezze misure, il coprifuoco ma dalle 23 alle 5. I commercianti, i ristoratori che dicono già il 70% del fatturato con la paura, con i timori, con le angosce, con i ricoveri che salgono, con questa infodemia, già questo 70% ce lo siamo giocato. Tanto che vengo a dire, ma a sto punto, ma perché non chiudiamo tutto? Cioè io non sono d'accordo, ma come scrive Libero, tanto ormai siamo diventati 60 milioni di scienziati, in genere ci sono 60 milioni di allenatori della nazionale di calcio, tutti sanno qual è la squadra migliore da schierare ai mondiali e agli europei. Adesso siamo diventati tutti esperti di scienza e sappiamo tutti cosa fare. No, io lo dico, io non sono tra questi, non so cosa fare, sono contrario a un'idea del lockdown, la chiusura eccetera, però ma per lasciare le cose così a metà, le regioni che chiudono, coprifuoco, però gli inviti state a casa, ma a sto punto chiudete tutto, tanto i ristoranti sono già mezzi falliti così, non è che uno va a cena alle 22:30 se ne va, poi se non se ne va, ha paura di andare, già i ristoranti, i bar, ieri sono andato in metropolitana, ero alle 5:30 in metropolitana, 17:30, era il deserto, era vuota, sembrava la domenica a mezzogiorno quando la metropolitana è vuota, già la gente ha paura, si ritrae, a sto punto chiudete tutto, ma che cavolo vi devo dire, chiudete tutto, se no fate come De Luca che ha proposto la nuova ordinanza, il divieto di spostamenti tra le province. Io quando l'ho letto ho detto ma dai, ho fatto la battaglia per anni a dire l'abolizione delle province, adesso tu Carmelo se ti trovi in una strada di Milano al confine con la Brianza, sai dove finisce la provincia di Milano e inizia quella di Monza e Brianza, per dire? Tu sì? Cioè mica c'è il cartello peraltro, stai uscendo dalla, sì, a Monza certo finisce, ma se sei in una via laterale di quei comuni al confine tra Milano e la provincia di Monza e Brianza, tu sai se sei in una strada di una provincia o l'altra, cioè avete capito? Il divieto di trasferimento da una provincia all'altra, ma cosa vuol dire? Ma chiudete tutto e fate prima, no? Chiudete tutto, io sono contrario a chiudere tutto, ma se tanto mi dà tanto e dovete fare le cose a metà, chiudete tutto, tanto guardate anche questa storia della scuola, mia figlia adesso è in alternanza a casa, mio figlio adesso da oggi è a casa con la didattica online, ma dai, ma su, è tutta una roba come Arlecchino, a patchwork e basta. Vabbè, ma dai, non c'è solo il Covid, non c'è solo il Covid. Chi è che abbiamo anche l'Azzolina sulla scuola? Ieri era da Lilli Gruber, c'è anche il nostro Sebastiano Barisoni, da Lilli Gruber, che trasmette da casa, peraltro. Ci sarà una percentuale di didattica a distanza, come era già stato previsto comunque dalle linee guida che abbiamo approvato quest'estate, quindi sarà una didattica mista, come avevamo chiesto. Mista. Io sono di quella percentuale sfigata, ve lo dico da genitore, con i figli adesso a casa. Vabbè, non c'è solo il Covid, dai, io voglio parlare d'altro, ma poi tanto di Covid parleremo. Comunque, io voglio parlare di una notizia che è finita nelle pagine interne dei giornali, ne ha parlato il Quotidiano Nazionale un paio di giorni fa. Vi ricordate la vicenda delle bestie di Satana? Un titolo che ci riporta a degli orrori, no? degli omicidi efferati, omicidi per esempio di Chiara Marino, di Fabio Tollis, di Mariangela Pezzotta. Per questo voglio salutare il padre di Mariangela, Silvio, che è sempre stato una voce molto forte, mai come dire giustizialista, mai dura ma giusta. Silvio Pezzotta, ben ritrovato e grazie di essere qui. Padre di Mariangela, uccisa appunto dalle bestie di Satana. La notizia è questa, che Andrea Volpe, che ha scontato 16 anni in cella, è considerato uno dei primi pentiti di quella setta, ora potrebbe laurearsi e noi diciamo va bene, la redenzione, il recupero eccetera. La notizia che ha fatto scalpore è questa: potrebbe con la sua laurea scienza dell'educazione diventare insegnante, potrebbe intraprendere questa carriera. Ecco, io qui dico, beh, insomma, forse uno stop andrebbe dato, però mi interessa più il suo parere, Pezzotta. Uno stop, lei prima parlava dei figli. Lei affiderebbe in una classe Volpe come insegnante che ci fosse suo figlio? No, infatti è qui. Io qualche problema me lo pongo, ma non per la persona, per l'amor di Dio, ognuno può fare quello che vuole, però situazioni come queste stridono in un modo pazzesco. No, no, ma infatti, guardi, io sono d'accordo con lei, cioè io sono per la redenzione, il recupero, la riabilitazione, però forse il sistema dovrebbe dire va bene, fai il tuo recupero, studia, hai scontato 16 anni, però ci sono dei lavori forse che lo Stato non ti garantirà, tipo formare dei ragazzi. Formare dei ragazzi è un compito molto, ma molto difficile. Un compito veramente nel centro della famiglia. Se inseriamo dei tasselli che obiettivamente non sono molto giusti, qui si tende proprio a sfasciare il concetto di insegnamento. Poi, per l'amor di Dio, in questi anni, voi sapete, io ho sempre detto che ne ho scontati sempre pochi, non è che, però mi adeguo al sistema, alla magistratura, al pentimento, è un pentito, tutto quello che vuole, però le situazioni sono un po' diverse nella vita di me, oltre l'angolo. Mm-hmm. Per cui queste situazioni, come ho detto prima, fanno riflettere molto. Fa riflettere. Ma infatti io l'ho detto, lei di diritto, certo, per l'amor di Dio, certo. Però... No, io l'ho detto prima, lei non ha mai, dalla sua bocca non sono mai uscite parole né di odio, né di cattiveria, né di rabbia. Io però... ci vivo con i ragazzi, perché io ho i bambini che corrono in bici, per cui conosco molto bene l'ambiente e queste situazioni ha dato scalpore, ecco. Devo essere sincero, anche nelle cose più banali, ma la gente gli è rimasta un po' di amaro in bocca. Sì. Guardi, Silvio Pezzotto, io ho convocato un amico, giornalista e scrittore, Massimo Fini. Sì? Massimo, buongiorno, ciao, come va? Ciao Alessandro. Allora, questa vicenda tu te la ricordi, insomma, come dimenticarla, le bestie di Satana? Cioè, a parte l'Italia è uno strano paese, perché Amanda Knox è venuta a dare qui lezioni di diritto penale. Ma io credo che posso il diritto alla rieducazione, insomma, tutto quello che sappiamo, alcune diciamo discipline dovrebbero essere tolte. Non è che uno che ha fatto certe cose può fare il poliziotto, il magistrato o l'insegnante. Ecco, anche l'insegnante, no? Beh, si potrebbe benissimo, senza ledere il diritto di alcuno, porre alcuni paletti, che non sono tanti. Sì. Quello è sicuramente quello dell'insegnamento. No, mi sembra corretto. In realtà non esiste una legge a riguardo, cioè nel senso che se no, uno... non esiste, perché si basa sul principio generale giusto che la detenzione, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Sì. Per la verità io non sono neanche tanto d'accordo su questo, perché il termine rieducazione mi ricorda Pol Pot, Mao, diciamo riabilitazione, magari diciamo meglio riabilitazione. Sì, rieducazione sembra un po' da... E comunque lui torna a essere, questo soggetto torna a essere in pieno potere dei suoi diritti civili. Ecco, si potrebbe porre appunto alcune limitazioni, basta una legge, non sarebbe costituzionale. No, infatti, Silvio Pezzotto, lei andrebbe bene, visto che non ha mai chiesto né vendette né, per carità, niente di tutto questo. Andrebbe bene l'idea di una legge che limiti almeno alcune professioni. Pezzotto. Non la sentiamo più, insomma, è caduta la linea. Va bene, su questo va bene. Comunque l'abbiamo recuperato? Ci sente Silvio Pezzotto? No, perché già la linea era un pochino disturbata, ma su questo va bene. L'abbiamo detto, magari lo recuperiamo più tardi, sì, perché adesso la linea era un pochino disturbata. Massimo Fini, io ti ho chiamato anche per l'altra vicenda, insomma tu hai lanciato un po' questa, secondo me, questo allarme giusto 2-3 giorni fa sul Quotidiano Nazionale in un'intervista, a dire si sta un po' parlando troppo di questo Covid, che per carità c'è, la situazione è anche purtroppo peggiore adesso rispetto a un mese fa e lo sappiamo, però io questo l'avevo scritto già sul Fatto Quotidiano, che questo eccesso di informazione, si parla solo di Covid e purtroppo lo stiamo facendo anche noi, per dire che non bisognerebbe farlo. Ecco, però oggi c'è un pezzo sempre sul Fatto che vi pregherei di leggere, tu e gli ascoltatori che ne hanno voglia, dove dico che oltre alla pandemia di Covid c'è una pandemia di panico. Sì, sì. Perché misure come il coprifuoco e tutte le altre che sono state prese, ma prendiamo il coprifuoco. Il coprifuoco è stato utilizzato solo durante la guerra. Nel Medioevo aveva un altro senso che non aveva. È un provvedimento eccezionale che si prende per cose eccezionali. Ci sono state altre epidemie nell'ultimo secolo e mezzo, alcune più letali del Covid, e non si è mai sognato di nessun paese in Europa, in Italia, nessun paese di mettere il coprifuoco o di mettere queste. Ma poi io dico questo, cioè perché nasce? Nasce per limitare le persone che vanno nei locali. Dai, chiariamolo, no. È questo il motivo, sì, no? Voglio dire. Ma vanno fino alle 23, cioè se vuoi limitare gli aperitivi, ecco, per dirla no, alla milanese. Ma è tutta una serie di incongruenze, perché poi dopo il fatto è che c'è una risposta sproporzionata a un pericolo che è estremamente limitato, perché al momento, dopo 9 mesi di Covid, i morti sono lo 0,15% della popolazione italiana. Lo 0,15%. Tu per questo blocchi una popolazione? Oltre che un'economia. Sai cosa ti dirà? Sei subito stato messo tra i negazionisti con questa frase. No, perché scusa un attimo. No, ma certo, ma io te lo dico provocatoriamente, non è così. È tornato che quando parli degli ebrei, se non citi l'olocausto, esatto. Se neghi, ma insomma. Non si può più dire niente, guarda, non si può più dire niente. È un po' così, non si può più dire niente, ma perché quando si instilla la paura, oggi per esempio il professor Palù, che è un virologo, sempre sul Quotidiano Nazionale, lo cito perché su questo tema dice la letalità in genere, tu hai detto 0,15, la letalità stimata è tra lo 0,3 e lo 0,6%. Questi sono tra lo 0,3 e lo 0,6 è la letalità. Basta fare 60 milioni di italiani e 36.000 morti, e c'è la percentuale, certo. in quegli ordini lì. Ma questo secondo me vende questa panico, che ripeto, io l'ho chiamata epidemia di panico, dipende da due cose. Uno, che si è incrinato il mito della scienza che tutto può e a tutto provvede, perché il Covid è uno scanzato, fa i cazzi suoi, sfugge alle previsioni, sfugge alle regole, e noi abbiamo invece il mito che dobbiamo tenere tutto sotto controllo, dobbiamo avere tutto sotto controllo. Non è così, ci sono cose che sfuggono al nostro controllo, la prima. La seconda cosa per cui c'è questa pandemia di panico è che noi non siamo più in grado di accettare l'idea di una cosa così naturale e ineludibile come è la morte biologica. Ecco, questo tu lo hai sottolineato, che è un aspetto filosofico mi interessa molto. Siamo in una società sempre più performante, dove bisogna essere in forma e belli snelli anche a 80 anni, a 90 anni. Ci ha raccontato che non ci sono più gli anziani, ma c'è la terza età, la quarta età. E questo che cosa produce? Che giustamente la gente ha rimosso questo concetto del fatto che la vita prima o poi finirà, la vita biologica. Certo, ma vedi, la società del benessere, la società che ha proclamato per la verità nella dichiarazione di indipendenza americana il diritto alla ricerca della felicità, che poi è diventato con l'edonismo straccione contemporaneo un vero e proprio diritto alla felicità, la morte non ci sta. È fastidiosa. L'intollerabile, l'indicibile, come la pedagogia di Vittoriana Memoria. Invece dovremmo ricordarci che la morte c'è, esiste, eccetera. E poi dovremmo ricordarci anche quello che dice il vecchio saggio Epicuro, cioè muore mille volte chi ha paura della morte. Cioè quest'ansia, che non c'è dubbio, ha preso tutti, ci contagia, che è dovuta anche molto all'allarmismo che ha fatto tutti i giornali, il mio compreso, e che si porta dietro poi delle conseguenze sul piano della salute e di tutto quanto, è un'ansia non giustificata dai fatti. Sì, ecco. Cioè diciamo è giusto avere anche dell'ansia, della preoccupazione, ma per carità, perché non dovremmo averne. moduliamola rispetto alla situazione, per quello che è, non esageriamo. Ma io lo dico per primo anche come operatore dell'informazione, io sto cercando per il mio piccolo, nella mia trasmissione, di trovare anche altri temi. Ieri appunto avevamo qui Mario Calabresi e Francesca Schiavone a parlare di libri, l'altro ieri abbiamo parlato di un altro tema, non lo ricordo, oggi ho aperto con questa storia delle bestie di Satana, cioè ci sono anche altre cose di cui parlare. Ma sai, il giornalismo non sa fare più il giornalismo, e devo dire anche i giornalisti in generale non sanno fare più i giornalisti, perché per esempio quell'intervista del Resto del Carlino mi piace perché me l'ha fatta, ma è un'intervista fatta malissimo. Ma no, dai! Sì, mentre recentemente mi è stata fatta un'intervista da uno dell'intellettuale dissidente, che è uno di questi giornali online. Vabbè. Un'intervista bellissima, alla fine chiedo al tipo: beh, come te la sfanghi? Come... Io faccio l'operaio alla Bayer, cioè i giornalisti devi trovare fuori quelli che non hanno la tessera dell'ordine. Ah, proprio i giornalisti, questo dice Massimo Fini, chi ha la tessera dell'ordine, cioè così, ecco, per DPCM non è più giornalista. No, dai, adesso così no, è un ma po'. Guarda che sai, io sono intervistato, beh, per carità, sulla carta stampata sono intervistato abbastanza, nella radio e nelle televisioni mi chiami solo tu e mi cacceranno perché... No, ma no, assolutamente. Forza, sono le 24 ore, io gli imprenditori li odio, quindi ci vuole molto coraggio. Li odi, ma perché li odi? Danno lavoro, dai, vabbè, dai, non farmi cacciare. Adesso non ti voglio far cacciare, ma voglio dire, mi è capitato più volte che le interviste migliori mi sono state fatte da persone che non facevano il giornalismo come seconda occupazione, perché dovendo vivere facevano un'altra. Cioè hanno un contatto con la realtà, tu dici. Io non so da che cosa dipenda, ho notato questo. Poi succede questo, che siccome sai benissimo che oggi in giornalismo le collaborazioni te le pagano, io ho un'amica che collabora al glorioso Corriere della Sera, prende la storica dell'arte, prende 10 euro a pezzo. 10. Allora come puoi vivere? Uno spritz, ti fai uno spritz, ecco. Te lo prendi e vai a farti uno spritz, se è ancora consentito, se è ancora consentito. Va bene Massimo, io ti ringrazio, io ti continuo a invitare, certo, finché non... poi se mi cacciano vengo a bussarti alla porta e dire adesso ci troviamo cosa facciamo? Un altro lavoro. Ci troviamo un altro lavoro, no dai, speriamo di no. Da rider, non so. Sono gli unici che escono, non è male. Non ti vedo molto rider però. Un'ultima cosa, tu dicevi... se io sono al confine fra Milano e Sesto, come fai? Che faccio? Ma è tutta un'incongruenza di questo genere. Mi piace che vedo che Conte si dà da fare, si è speso molto, eccetera. Ma è di principio che la cosa è sbagliata, ripeto. Bisognava limitare al massimo le misure limitanti. Sì, sì. No, ma infatti. Ripeto, pensa alle palestre. E che tanto le chiudono anche quelle. Le palestre è una questione di salute, soprattutto per i vecchi, è una questione di salute poter muoversi. Sai cosa ti dicono? Falle a casa la ginnastica, basta un tappetino. No, tu esci, dici va bene, sono stufo di stare in casa, esci e a respirare una boccata d'aria, respiri una boccata di anidride carbonica, perché hai la mascherina, anche se sei da solo devi portare la mascherina. Però su quello sei più tranquillo, sai perché? Massimo, ti saluto e ti ringrazio. Massimo Fini, grazie per essere stato qui con noi, un abbraccio. Ma sì, poi sapete che avremo ospite Luca Sacchi, che è stata una medaglia di bronzo olimpica e che ha lanciato anche questo tema sulla questione dello sport. e dice: ma non capite l'importanza di una popolazione sana dal punto di vista dell'attività sportiva, che vuol dire salute fisica, vuol dire pesare meno anche sulle casse dello Stato per diverse patologie, l'obesità e quant'altro. E invece è innegabile che si va verso, che si vada verso una chiusura anche di palestre e piscine. Gli è andato una settimana di tempo, ma già i giornali dicono: è pronto il nuovo DPCM. Ragazzi, ogni settimana c'è il suo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Va bene, andiamo un attimo in pubblicità, poi arriva Manera. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. 1, nessuno, 100 Milan. Posso dire che non si capisce più niente, ascolti uno e ti dice e non bisogna, il panico, questo, ascolti quell'altro e ti dice no, bisogna essere più severi, bisogna stare attenti perché dopo l'epidemia può aumentare, ma basta. Iran, invece di straparlare, te e il tuo ospite, magari ascoltati le parole degli anestesisti, eh? Che loro non penso che siano di parte. Fenomeno. Ma a che ora vai a cena la sera? Fammi un po' capire. Allora, tra tutti i fenomeni che ci scrivono, questa è la domanda più interessante. Io per esempio ceno alle 7:30 e alle 8:15 ho già finito, perché per me potete mettere il coprifuoco anche alle 6:15. Io sono a posto così. Mentre invece Leonardo Manera, che va in giro a farsi dei grandi amari. Buongiorno. Pardino. No, buongiorno, non bevo amari da non so quanto tempo, non, praticamente non bevo più alcolici. Per me invece è sempre interessante ascoltare Massimo Fini, nonostante quello che diceva l'ascoltatore. Anche se ci fa la cacciare adesso, vediamo un attimo. Facciamo la panicodemia, io la definirei, la panicodemia. Sì. Ti ricordi da cosa, vediamo se ti ricordi quello che dico, da cosa nasce la parola panico, da dove deriva panico? Il becchime, vediamo. Per gli uccelli, il panico, è quello che dal dio Pan, certo. Cosa faceva il dio Pan? Urlava, faceva dei grandi urlava. Era in giro con un flauto, il flauto di Pan, per l'appunto, suonava questo flauto per così concupire delle donne nel bosco. Solo che mentre era lì lanciava degli urli così forti, senza motivo, che tutti spaventavano, e lui stesso si spaventava e scappava. Magari era lì con una ragazza. Scappava da se stesso. Vorrei conoscere. Era con una ragazza, diceva: ti vorrei conoscere meglio, perché parlava così il dio Pan. E poi... e fuggiva. Cioè un moderno, un antico malato di mente attuale. Ecco. Esatto, ma scappava anche lui, e senza motivo, faceva questo. E quindi, e pensa che il dio Pan è diventato un personaggio mitologico nonostante avesse questi evidenti disturbi. Quindi è bello che nella mitologia ci fossero anche dei personaggi con dei gravi problemi. Questa secondo me è una lezione. Comunque ha ragione l'ascoltatrice la prima a dire: non si capisce più niente, non si capisce più niente. Ma perché? Perché l'infodemia ha portato a questo. Io me le immagino, no, le riunioni di redazione in TV a dire: oggi quale virologo chiamiamo? Allora, questo l'abbiamo già sentito 3 volte, questo 4, questa però viene bene in TV, ha una bella faccia, il faccione, sai che c'è la regola del faccione in TV, questo è un bel faccione, rende bene, buca la telecamera, ma cosa dice? Che studi ha? Buca la telecamera, lascia fare. E poi si dividono, ma lo vogliamo rigorista o uno che tranquillizza? E via, così. E dal mattino alla sera apri il forno a microonde e ti escono dibattiti sui virologi e la gente non capisce più nulla di quello che deve fare. C'è anche una certa schizofrenia nei giornali, perché per esempio da un lato si dice che bisogna stare a casa, muoversi il meno possibile, però poi si loda le iniziative che fanno uscire le persone. Per esempio adesso c'è un festival jazz a Milano, un festival antipessimismo, no, e quindi andate, che è importante non essere pessimisti, però dall'altra parte state, si dice anche state a casa. E noi che dobbiamo fare? Che facciamo? Io intanto alla radio non vengo. Ecco, non vengo perché... Ecco. Infatti vogliamo dirlo, c'è il sole ma Manera è a casa. Manera è proprio ligio al ministro Speranza. Manera sta a casa il più possibile. Sono ligio alle regole. Va bene. Guardate che, attenzione, ci chiama Maria da Roma. Leggo, non so se è vero, avere... 92 anni, Maria, è vero? È verissimo, è verissimo. Grande, non Maria. Dovete pensare che tutti i vecchi siano proprio rincoglioniti, Maria, ma assolutamente, ci mancherebbe. Sentite qua come, prego, ce le canti, Maria, ce le suoni, forza. Ve le canto e ve le suono, perché io voglio dire che non è che si parla troppo di Covid, se ne parla male, perché non trovi mai due persone che abbiano lo stesso parere, perché passano dalla 7 alla D'Urso, che io, Dio mio, penso che la tengano, perché con tutto quel movimento di braccia magari alimenta l'elettricità, non lo so, perché veramente... Cioè, no, questo è interessante, secondo lei Barbara D'Urso ha collegato al movimento delle braccia delle turbine, sì, che certo, generano l'elettricità? Sì, perché effettivamente è veramente una cosa... Allora, non è male. Vabbè. Oltre a tutto il resto, sì, questa cosa di invitarci a stare a casa, che potrebbe avere anche benissimo una sua validità, cosa ti comporta? Che uno vorrebbe, per esempio, vedere la televisione. Ma tu accendi la televisione e ci sono 10 programmi di cucina, 20 programmi di cucina, che solo ad assaggiarli quelli lì dovrebbero pesare 100 kg. Poi c'è la moglie di un famoso sindaco di Roma che tiene banco dalle 10 del mattino a mezzanotte, con uno splendido programma, diciamo, di tribunale, che ha trasformato un tribunale in una specie. Non voglio dire una parolaccia, ma lei Maria è l'Aldo Grasso nascosto dell'Italia, cioè è straordinario. Però Maria, su questo lei ha ragione, cioè si parla, il fatto che se ne parli male è, secondo me, collegato al fatto che se ne parla troppo. Capisce? Quindi dopo cioè, se uno deve continuamente fare delle trasmissioni sul Covid, dopo un po' non sa più cosa dire, si inventa. Ma anche, diciamo la verità, si cerca anche della gente squallida, perché non è possibile che delle persone che abbiano un titolo professionale dicano certe cose. Insomma, permetteteci di parlarne, accontentateci di darci delle nozioni valide, precise, sulle quali... E allora, per esempio, adesso questa cosa delle chiusure, delle non chiusure, io sono per non chiudere le scuole, perché un esempio: io abito in una piazza e ho le finestre che danno su questa piazza. Allora, nelle ore della scuola lei praticamente vede solo gente normale, e devo dire tutti con la mascherina, onestamente. Però nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, quando i ragazzi sono usciti da scuola e hanno finito di fare i compiti, si radunano. Io l'altro giorno, per andare a messa alle 6:30, ho dovuto fare un giro ampissimo, mentre potevo tranquillamente attraversare sulle strisce, perché loro dei ragazzini dai 16 anni in su, c'avevano la mascherina? C'avevano la mascherina? No, tutti senza. Ma sì, ma è ovvio, ma anche qui a Milano. Non cioè frega ce l'avevano tipo collana, no? Sì, ma sì, è vero così. Allora, 4 macchinine tutte sulle strisce pedonali davanti alla chiesa, tutti con questa mascherina tipo collare, che si sbaciucchiavano, che bevevano dalla stessa bottiglia, che si spintonavano. Ma sì, è così. È passata una macchina della polizia, posso, c'ho anche il numero, sì, e che li ha sfiorati, perché dall'altro lato della strada dove erano parcheggiati questi ci sono i taxi, e quindi questa macchina si è passata proprio a filo di questi ragazzi. Allora, signora Maria, neanche, no, guardati. Neanche guardati, faccia una bella cosa, Maria. Lei, io la voglio ingaggiare subito come nostra editorialista. Io ogni tanto, Maria da Roma, se me lo consente, 92 anni, Manera, sì, la chiamiamo, la chiamiamo velocemente tra qualche giorno, i 92. No, allora, vabbè, Maria, velocemente, un suo parere sui programmi televisivi Il Grande Fratello e Temptation Island, per esempio. Li guarda? Ecco, per esempio, io credo che lo squallore ormai sia stato superato. Ecco, basta. Veramente. Ci stiamo facendo molti, ci sta facendo fare molti amici tra i colleghi televisivi. Non so, qual è il programma, più bello, il programma che salva, quello che dice, beh, questo dai, ancora Maria, si può salvare. Guardi, non lo so, sono quei programmi, diciamo, che parlano, non so, per esempio Piazza Pulita, la vedo volentieri. Piazza Pulita. Quell'altra, sono qual quei, è Piazza quel Pulita? Tipo di programmi. Qual è Piazza anche Pulita? Formigli, Piazza Pulita. Formigli, sì, beh, sì, Formigli, no? È bravo. Sì, sì. Formigli, ah, sì, è bravo. Ecco, Formigli, ma è bravo. Per esempio, anche quell'altro, com'è che si chiama, del sabato, e cioè trascimano sempre con delle persone che, cioè, io non sopporto. Vabbè, Maria, la chiamiamo presto, nostra editorialista, eletta sul campo, quando fai 92 anni, adesso le facciamo, la richiamiamo, tra qualche giorno. Oh, Leonardo, tra l'altro, anche quando abbiamo bisogno di riempire qualche minuto, secondo me, perché piace parlare. Quando abbiamo problemi abbiamo di tempo, un po' non sappiamo traffico, come coprire, mettiamo Maria. Dai, vai. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma scusa Milan, ma dov'è che lo vedi il sole a Milano? Boh. Io la signora Maria la voglio come nonna, per favore. Ma effettivamente stamattina c'era un bel sole quando era basso, sotto la Shigera, sotto la nebbiolina, Luggia milanese, adesso è un po' coperto. Stamattina era così alle 7, che ti devo dire, caro ascoltatore, dai adesso. Vabbè, Leonardo, Maria per me è già promossa editorialista di Uno, Nessuno, 100.000. Intanto, anche per me. Sì, vai. Potrei evitare di fare le mie cose, le fa lei qualche giorno. Uno l'ha scritto, fuori d'accordo. Manera, dentro Maria. No, invece noi teniamo d'accordo. Tutti, noi guarda, siamo inclusivi. Se continuate a pagarmi lo stipendio, io sono d'accordo. Eccola. A te, dai. A te. Allora, siamo stanchi, non del problema virus che tutti sappiamo che c'è. È inutile che alcune televisioni vadano a intervistare i negazionisti più pittoreschi, come dire, avete visto, quelli sono degli stupidi, l'unica linea possibile è l'allarmismo, ma lo sappiamo tutti che il virus esiste e in alcuni casi può provocare grossi problemi, il problema è un altro. Credo che gli italiani siano stufi delle continue cifre, del numero di tamponi che viene continuamente riportato, della cappa sotto la quale viviamo ormai da mesi, del moralismo strisciante che emerge qua e là, del paternalismo, di certe parole come movida che a certi giornalisti sembra piaccia così tanto pronunciare, come se fosse la causa di tutti i mali. La movida è responsabile di ogni cosa, la caldaia non funziona, è colpa della movida, si è bloccato l'ascensore, è colpa della movida, ti fa male il ginocchio, per forza è la movida. Vorremmo solo alcune regole, poche regole a cui attenerci, Siamo stufi dei virologi diventati star che talvolta litigano tra loro, dei virologi, meglio di alcuni virologi, diventati star che si offendono se qualcuno fa loro una domanda che non gradiscono, dei politici, di alcuni politici, che ipotizzano di trattare gli italiani col bastone e la carota. Nessuno di noi ha voglia di ammalarsi di Covid e magari rischiare anche la salute, ma proprio nessuno. Ma c'è un punto di non ritorno, è quello dell'esasperazione, quello in cui, e io ne vedo molti in giro, quello in cui qualcuno pensa non ne posso più e adesso me ne frego del virus, piuttosto mi ammalo. Ragionamento sbagliato, ma che ormai in molti fanno, basta guardare in giro. E la colpa è anche nostra, di chi lavora nei mezzi di comunicazione, giornali, televisioni, radio, social. Non c'è un attimo di tregua in tutti questi media. Si arriva a un punto di esasperazione, abbiamo bisogno di un attimo di tregua. E allora io voglio essere il primo a fare mea culpa, cambiando completamente argomento e ricordando che nella vita, Covid o non Covid, ci sono tante altre cose belle da fare e di cui parlare. Per esempio le cene, oh, quelle belle cene in cui ci si ritrova con tanti amici a parlare del passato, del futuro, tra una pizza e una birra, ridendo e scherzando. Beh, no, non si può fare perché c'è il Covid. Vabbè, il calcetto, quando dopo una giornata di lavoro prepari la borsa e vai a sfogarti sul campetto immaginando di essere Ibrahimovic. No, non si può fare, c'è il Covid. Allora, quando in qualche festa conosci una ragazza e dopo i primi approcci riesci a strapparle il numero di telefono. No, le feste non si possono fare, c'è il Covid. Beh, rimangono i parenti, si fa una bella riunione di famiglia, tutti insieme. Beh, tutti insieme, no, in più di sei non si può fare. Ecco, gli spettacoli. Vado a vedere un bello spettacolo per tirarmi su di morale. Sì, ma io abito in Lombardia col coprifuoco, dopo le 11 non so se mi posso muovere per tornare a casa, c'è il Covid. Allora, facciamo così, prometto che mi metto d'impegno e in due o tre giorni trovo qualcosa di bello che si può fare nonostante il Covid. Sono sicuro che qualcosa c'è. Per esempio, cantare sui balconi o fare la pizza fatta in casa, anche se non so perché, mi sembra un film già visto. E la colpa allora di chi è? Beh, tutta colpa della movida. Belli questi pezzi circolari, ti piace circolari? Qualcuno sostiene che non ti ricordi, ma Maria sia una tua vecchia fiamma. Caro Leonardo, no, Maria, la nostra amica Maria di 92 anni. Io non mi ricordo più nessuna fidanzata, non ho mai avuto fidanzata. Ah, ecco, non ho mai avuto nemmeno una fidanzata. Nemmeno una, mai avuto fidanzata. Daniele, mai. Va bene, ho capito, mai. L'hai detto. Daniele da Firenze. Daniele, buongiorno. Buongiorno dottor Milan, buongiorno Leonardo. Eccoci. Oramai non esageriamo, se no non ti buttare giù così, Leonardo. Mai, Daniele. Volevo solamente dire una cosa simpatica, perché ho ascoltato un attimo il signor Fini che ha detto che il giornalista faceva i dipendenti alla Bayer. Quello che l'ha intervistato, gli ha fatto. Però vado un po' più indietro negli anni. 1880, direttore del New York Times, John Swinton, disse in una scena con tutti i suoi collaboratori, dice: perché dobbiamo brindare a una stampa libera? Perché se tu dicessi quello che pensi, domani mattina saresti a cercare un altro lavoro. Era il 1880 e fece per la prima volta la frase: siamo delle prostitute intellettuali, smetto. E si dimise. Quindi voglio dire, oggi nel 2020 è passato tanti anni, però credo che alla fine, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma sia così. Dove uno prende i soldi e guadagna e porta a casa la pagnotta, non può dire quello che pensa, deve fare il dipendente alla Bayer. Non è sempre così, Daniele, è un po' tranchant come giudizio, ma anche Mark Twain diceva che i giornalisti riconoscono sempre il vero dal falso e poi pubblicano il falso. Cioè, però ci sono tanti, come dire, aforismi molto, molto duri sulla professione. Ringrazio Letizia Puccioni, collega radiofonica, che mi ha mandato tre foto straordinarie del sole di Milano, del rosseggiare dell'alba, del post-alba di Milano questa mattina. Quindi c'era il sole, lo posso certificare. Giornale radio. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. 1, nessuno, 100 Milan. About the social lives that made a lipstick plastic and paint. Rice. Maria o Manera? Questo è il dilemma. Assumiamo Maria, per favore. Finalmente una Radio Maria che non fa dormire. Manera, e se Drio venirmi rece a svento e a questa cassa di mascherina. Ciao, un bacio. Per chi non avesse capito, mi stanno venendo le orecchie a sventola a furia di mascherina. Manera, e se Drio venirmi rece a svento e a questa cassa di mascherina. Ciao, un bacio. E se tre mi stanno venendo, sì, e se tre avvenia e c'è sventola. Un baso anche. Signori, ma Maria ha avuto un trionfo qui di ascolti, devo dire stupendo, geniale il nostro ascoltatore, la nostra Radio Maria, la nostra, la chiamo subito ribattezzata così, Radio Maria, Radio Maria da Roma, buongiorno. Niente, è la nostra editorialista, basta. Maria non lo sa, ma gratuitamente, per l'amore nei nostri confronti, è diventata la nostra editorialista, la potremo sentire nei prossimi giorni, Radio Maria da Roma. Chissà se sarà contenta di essere definita così. Vabbè, io vorrei sottoporre agli ascoltatori all'inizio di questa seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan questa notizia che arriva dall'Europa: le parole hanno un peso. E allora, dopo aver deciso di non dover chiamare più il latte di soia latte e il formaggio verde formaggio, ora si passa agli hamburger, e in Europa dicono basta definire hamburger tutti quei prodotti vegani che si chiamano hamburger vegani, ma in realtà di carne appunto non hanno niente. L'hamburger è fatto di carne, l'hamburger, la salsiccia, quelli lì non si possono chiamare hamburger. Oh. Ma guardi, veramente, già buongiorno. Buongiorno. Sono Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli. Sì, buongiorno. Sono emozionato. Come no? Può chiamarmi maestro, chiami maestro. Luce, divinità. Luce anche. Divinità, anche va bene divinità. Divinità. Sì. Voglio far notare che già mangiare un hamburger, che sia di carne o di altro, è già volgare. Ma è perché? Già volgare. Ma è volgare, non si fa. Se vuoi mangiare l'hamburger, vai alla tavola calda, non andare al ristorante, non si mangia solo per riempirsi lo stomaco. Però vorrei sottolineare che è necessaria comunque la creatività in cucina, anche nel linguaggio. Lei ricorderà che io il minestrone, ad esempio, anche quando lo cucinavo agli albori della mia esperienza, non lo chiamavo minestrone, lo chiamavo frammenti dell'orto sospesi in lacrime vegetali. Che fa tutta un'altra, cosa. Però è sempre un minestrone. Di farlo pagare molto di più, ecco, molto di più. Tipo? Ma quei 150.000 euro. Però. Oppure, ecco, la cotoletta che tanto piace ai milanesi. La cotoletta. La cotoletta con i pomodorini. Già ce la chiama, chi la chiama orecchio d'elefante, che è già una discreta innovazione. Non chiamiamola cotoletta, che è volgare. Io la chiamo alba dorata con mare di Pachino. Ecco, alba dorata con mare di Pachino. Vede che assume. Però alba dorata in Grecia, ma è un po' così. Ma qui siamo in Italia. Allora in Grecia la chiamerò alba non lo so, alba mediterranea. Ecco. Alba mediterranea, come quella che lei ha intravisto stamattina a Milano. C'era. No. Io nel mio borgo medievale, a Pannocchio di Castelbiondo, c'è sempre il sole. Quindi stimoliamo la creatività in cucina. Ma lei è d'accordo sul fatto che gli hamburger sono di carne? Insomma, non si può chiamare quello che era definito l'hamburger vegano un hamburger. Questo è dato di fatto. L'hamburger non rientra nelle mie priorità. Va bene. L'hamburger che sia di carne o non di carne non è mai da cucinare. Carne macinata, trita e ritrita. Buona, ecco, direi questo: carne trita e ritrita. Lo chiami così come creazione? Carne trita e ritrita. Le viene anche bene con la sua pronuncia. Com'è che viene? Lei si vuole del male. Allora, ancora siamo qui nel ventunesimo secolo a parlare di hamburger. Ma dove siamo? Vabbè. Ma dove siamo? Ma vogliamo cucinare qualcosa o no? Immaginiamo una lacrima di carne trita e ritrita, ma, si potrebbe. Ma immaginiamo piatti diversi, per esempio una crema di sughero e topinambur, cose di altro tipo. No, ancora la cotoletta. Mamma, ma scherziamo? Ma a che punto siamo arrivati? Tra l'altro gli allevatori pare che in maniera ironica abbiano detto ribattezziamo quei prodotti vegani dischi e tubi invece che hamburger vegani. Ma che vocalità di questi allevatori, però, mi permetta, questi allevatori, ma non fa nemmeno l'allevatore, cambia lavoro, diventa un creatore, un suggeritore. Un suggeritore. La ringraziamo. Sì, Bernardo Ferruccio. Manderò la parcella. Sì, manderò la parcella. Ci saluti sua moglie, sua moglie. Maria Assunta Bernarda Intingolo Paciulli. Va bene, sì. Andiamo. Non ricordo mai il nome per intero. No, infatti, secondo me c'era anche un Benedetto da qualche parte. Andrea Reggio Calabria da Giuseppe. Giuseppe da Reggio Calabria, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, ascolto, io sentendo le parole di Maria, davvero mi sono innamorato. Di Maria da Roma. Accidenti. Sì, guarda, è una icona da prendere ad esempio nel modo più assoluto. Abbiamo fatto bene a ingaggiarla. Ma ascolta, visto alle parole di Maria, io per salvaguardarla vorrei ricordarti che serve il miccio di bue. Ma perché Giuseppe, ma è lei quello del miccio di bue? Sì. No, io sono proprio io che vi ascolto e basta. Ricordiamolo bene per tutti gli ascoltatori. Il buon Giuseppe propone in alcune situazioni estreme c'è una soluzione, la rispieghi bene. Assolutamente. Sì. In loco, cioè, ci vuole un micci boy, perché Maria per andare a messa deve fare quella, attraversare le strisce, siccome questi scalmanate li chiamo, ostruiscono. Quindi lei, Giuseppe, suggerisce di andare, Maria, se trova dei sedicenni senza mascherina che ostruiscono il passaggio. A prescindere dall'età, non c'entrano i sedicenni, c'entrano pure quelle con negli anni. Lei cosa farebbe? Lei passa. Io a Maria gli metto subito la scorta. Lei deve assolutamente fare quello. Io la vorrei amare. È qualcosa di bello, di bellissimo. No, però mi spieghi, Giuseppe, giusto per capire. Lei, se fosse in Maria che trova la strada ostruita da ragazzi giovani, passa come con il miccio di boe e. Il miccio di poi in loco, senza contravvenzione, senza menzione, nulla. Serve in loco. Ma fa male il miccio di boi, fa male il miccio. Penso proprio di sì, anche perché è bagnato nell'aceto. Guarda, ti posso assicurare che è qualcosa di esemplare proprio. Andiamo a nozze. Maria è una icona della radio ora. Assolutamente basta. Sì. Anche un po' Giuseppe da Reggio Calabria, grazie, col miccio di boi. È la sua soluzione. Governatore De Luca, speriamo che il governatore De Luca non sia all'ascolto, altrimenti potrebbe adottare questa soluzione. E lo so, ma il miccio di boe è proprio calabrese. Ma ce l'abbiamo la vecchia perché Giuseppe da Reggio Calabria una volta ci disse: quando la soluzione, il dialogo è finito, quando il dialogo è finito e ti trovi in una situazione in cui c'è poco da parlare, c'è sempre la soluzione del miccio di boe in loco. Meglio se intinto nell'aceto, perché ho capito che così il miccio di boe fa più male. E ce lo disse, credo, così, sentiamo, no, non l'abbiamo trovato. Vabbè, non c'è. Comunque vorrebbe una bella passata di miccio de boe in loco. La bella passata di miccio de boe. Sapete che uno mi ha scritto un giorno dicendo: se vuoi te lo mando. Grazie, se me lo manda io non saprei come procurarmelo, non lo uso, giuro che non lo uso nemmeno con Leonardo Manera quando si comporta male. Però sarebbe stupendo presentarsi in onda con il miccio de boe. Che ne dici? Leonardo, non è male. Ormai sei diventato anche tu un giustizialista. Ti ricordo che eri partito su posizioni democratiche, poi così, sì, hai avuto questa deriva giustizialista. Ti ricordo che tu ieri hai evocato il tuo immediato futuro, cioè quando andrai in giro con le pistole che hai appena ordinato, credo su internet, per far fuori mezza radio. È appena passata poco fa Alessandra Scaglioni, responsabile, sì, dei programmi di Radio 24, dicendo: ma oggi c'è Manera? La prima cosa che ha detto è: oggi c'è Manera, e poi ha girato al largo. Dunque, mi fai venire in mente che qualche anno fa mi hanno detto che in un mercatino di Milano si potevano trovare, volendo, chiedendo prima, anche i Kalashnikov. Così. Quindi, mi dia un, sì, chilo di melanzane. Mi hanno detto: è un mercato un po' ambiguo, si può trovare di tutto, volendo anche i Kalashnikov. Proverò a verificare se è vero. Se un po' ambiguo, va bene. Andiamo un attimo al traffico, poi ci raggiunge il grande Luca Sacchi. Uno, nessuno, 100 Milan. Signore, sono le 10:20 minuti e abbiamo con noi, per parlare di quello che succederà al destino del nuoto, le piscine, un argomento che interessa milioni di italiani, milioni di famiglie, un grande ex nuotatore, bronzo olimpico, lo ricordiamo tutti, a Barcellona, ma anche ha vinto degli ori europei, diversi altri bronzi, argenti, giochi nel Mediterraneo, insomma un palmarès ricchissimo. Luca Sacchi, buongiorno Luca, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Luca Sacchi, che è, come dire, un uomo che vive di nuoto dalla famiglia proprio, no? Parenti, genitori, tutti nuotatori. Adesso ci si trova a gestire una situazione difficile. Intanto le ultime notizie, Luca Sacchi, che tra l'altro ha anche una piscina, gestisce una piscina, si chiude? Forse lo saprà già o non lo so, i sentori sono questi, eh? Beh, i sentori sono questi da tempo, noi abbiamo continuato a raccontarci un po' di butti via sul fatto che si potesse andare avanti e vogliamo ancora credere che sia così, perché è un po' l'unica soluzione che abbiamo. Abbiamo ovviamente subito un lockdown pesantissimo, perché noi siamo stati chiusi 3 mesi e 1 settimana. Uh-huh. Stiamo recuperando una situazione economicamente al limite del sostenibile, aiutata comunque dallo Stato, se vogliamo, attraverso finanziamenti delle banche che pagheremo nel corso degli anni, per dare un servizio alle persone il migliore possibile. Abbiamo chiesto a tutti quelli che lavorano con noi un grandissimo sacrificio di riduzione di stipendio, a cominciare da quando abbiamo riaperto a giugno, e si parla di persone che guadagnano molto poco. Mm-hmm. Per cui è stato estremamente doloroso chiederlo, estremamente generoso da parte loro concederlo. Cioè, pur di lavorare, le persone dicono: ok, facciamo questo ennesimo sacrificio, sì, manteniamo il posto di lavoro. Ma tra l'altro in piscina, anche mia figlia va in piscina, ci sono tutte le regole stringenti, tutte da rispettare. È ovvio che una vicinanza fisica c'è, però si dice anche che l'acqua della piscina non è un veicolo per il virus, no? Non dovrebbe essere. No, l'ambiente è ultra tutelato, sia per quanto riguarda gli spazi comuni, sia soprattutto per quando stai in acqua, dove c'è una componente di cloro che tutela appunto le varie persone. Ma sa cosa mi dà estremamente fastidio, signor Milan? Sì. Mi dà fastidio che lo sport sia considerato così, come se fosse un qualcosa di superfluo, che non sia praticamente mai stato menzionato nel corso della chiusura come qualcosa di fondamentale, che venga tirato in ballo solo per questi aspetti, che venga anche, se vogliamo, accostato al mondo professionistico, perché sono due realtà profondamente diverse, quella dello sport di base e quello dello sport professionistico, che hanno regole differenti, hanno necessità e danno anche una situazione differente a chi li affronta. No, ma non solo, qui ne abbiamo parlato varie volte anche Leonardo Manera, no? Tu spesso lo dici, è insopportabile come ci sia questo moralismo a dire questo, a questo puoi rinunciare, ma chi se ne frega di andare a teatro, chi se ne frega degli spettacoli, chi se ne frega della palestra, chi se ne frega della piscina. E poi ci ritroviamo persone, lo dico, obese, con problemi di salute, che pesano sul sistema sanitario nazionale, ma poi anche il benessere psicofisico, psicologico. Storicamente direi che il benessere psicofisico viene considerato sempre poco, come non una vera malattia che può arrivare, invece può arrivare. Ma tra l'altro, scusa, nella piscina dove vado io, per esempio, perché anch'io vado in piscina, si accede solo adesso tramite un'app attraverso la quale ti prenoti, quindi l'affluenza è molto controllata e scaglionata, insomma, quindi mi sembra che, sia, che siano luoghi veramente sicuri. Sì, immagino anche in quella di Luca Sacchi. Ecco, come succede alla DDS questa piscina che gestisce il Settimo Milanese? E noi abbiamo il nostro centro sportivo in assoluto, per cui gestiamo dal tennis alla palestra, alla piscina, che ovviamente è l'ambiente che muove numericamente il numero di persone maggiore. Abbiamo scaglionato gli ingressi, abbiamo usato un'applicazione per quanto riguarda la palestra, gli accessi al fitness, l'acqua fitness, in modo che tutti vengano registrati, i bambini che vengono portano ogni volta l'autocertificazione, i genitori non possono più entrare in spogliatoio, fatto salvo i genitori in età prescolare, abbiamo distanziato i phone che si possono usare da quelli che non si possono usare per avere appunto la distanza, lo stesso per le docce, abbiamo chiesto un sacrificio a tutti, inclusi i genitori che devono aspettare fuori dall'impianto, certo. E che sono spaventati e che pensano, oddio, mando un bambino in piscina, mi prende il raffreddore, non lo posso più mandare a scuola. Ma sai che questa Sacchi, però, è la preoccupazione che c'è. Io, anch'io, mia figlia, ma asciugati certo. Bene i capelli, mi raccomando, che se ti parte un raffreddore entriamo in sta procedura assurda. Magari è un raffreddore perché uno non si asciuga bene i capelli, appunto, e però vai a capire. Certo. Però noi l'abbiamo detto molto, molto chiaro quest'anno, i tempi spogliatoi per i ragazzi sarebbero stati estremamente rapidi e quindi questo non permetterà a loro di uscire con i capelli completamente asciutti, però l'abbiamo detto da subito in modo da dare una comunicazione chiara e sincera ai genitori: ci stai, stai con noi e lavori con noi, non ci stai, non ti iscrivi. Questo ha portato a una riduzione drammatica di iscritti durante questa stagione, che certo. Si somma ovviamente a tutto quello che ha comportato la chiusura di febbraio, perché sì. Noi abbiamo chiuso a febbraio, e ai voucher di recupero, quindi una sostanzione. No, ma è una situazione molto difficile. Vabbè, arrivano tanti messaggi. Grande Luca Sacchi, difendi il nuoto, è uno sport formativo. Ma sì, ma non è una questione, purtroppo è diventata una questione un po' di battaglia. In realtà ci sono tantissimi settori che dicono: abbiamo fatto tanti sacrifici, siamo stati alle regole, adesso la situazione è questa. Ma mi interessa molto anche il discorso, Luca Sacchi poi lavora anche alla RAI, fa il commentatore, il discorso formativo dei giovani, no? Cioè, che generazione cresciamo? Delle generazioni che adesso non potranno più giocare agli sport di contatto, almeno per già l'anno scorso, poi quest'anno, poi non fanno le piscine, poi le palestre. Per carità, finirà tutto questo, Però siamo tutti consapevoli che sia un periodo particolare, che ci sia un'emergenza medica, ci mancherebbe. Per cui i sacrifici, le restrizioni, le abbiamo tutti accettate. Non è quello il problema, torneremo a fare una vita normalissima, ma mi dà fastidio che proprio la categoria venga considerata così, che il discorso di Conte tratti lo sport in questo modo, che vengano fatte delle minacce, delle allusioni a situazioni che peraltro non hanno nessuna veridicità, non c'è stato alcun controllo così serrato da poter avere degli elementi per avvalorare il discorso di Conte sullo sport. E rimane nell'aria questa minaccia con tutte le persone che arrivano e ci dicono chiudiamo, con tutti quelli che non si iscrivono più per questo, con l'alone del fallimento possibile, e questo non è accettabile. Sì, diciamo, è una chiusura de facto, come dicono i ristoratori: se dite alle 23 chiudete e comunque dite state a casa il più possibile, già i ristoratori dicono è drammaticamente calato il fatturato, cioè la gente ha paura e non va. Certo. E quindi è quasi come dire chiudiamo, cioè non c'è molta differenza tra il dire così e il dire non chiudiamo. Ma certo. Ma tra l'altro anche Luca, sai che vorrei chiedere se poi effettivamente dei controlli nel suo centro sportivo ci sono stati o no, perché il problema sarebbe poi anche andare a controllare che tutti i centri sportivi siano in regola, quindi con controlli da parte di tutti. Non so se ci sono questi controlli. Allora, da noi non sono venuti, ma so che in altre situazioni sono, in altri centri sportivi sono andati, ma non mi risulta che siano trovate delle situazioni al di fuori di quanto richiesto dalle normative. La stragrande maggioranza dei centri che è stato visitato ne è uscito perfetto, perché c'è una cura della persona, perché ci teniamo noi alle persone. Sì, e poi anche aggiungo, perché, queste lotte di categoria anche ieri mi hanno chiesto. Francamente io vado in giro un po' per quanto posso. Sono stato a Roma quest'estate per una telecronaca, ho visto la città che versava in quelle condizioni, per cui non sto lì a dire la determinata categoria ha avuto questo, noi non abbiamo avuto. Siamo tutti messi molto male, però trattateci con dignità. Trattateci con dignità. E quando domenica, perché ormai i DPCM arrivano la domenica, abbiamo capito, sabato, la domenica, probabilmente ci sarà la chiusura, perché dai, è innegabile, c'è una battaglia, il ministro dello sport non vuole le chiusure, gli ha dato una settimana di tempo, ma che cosa è successo questa settimana? Ma voi avete visto, cioè, avete visto scandagliare ispettori a controllare tutte le strutture? Io penso di no. Quindi non è cambiato niente tra una settimana e l'altra. Guarderanno i dati, i numeri dei contagi e probabilmente diranno allora a sto punto si chiude. Che succede di fronte a una possibile chiusura? Ma io spero che arrivi veramente, perlomeno da parte nostra, per la prima volta l'idea di unirsi ed essere rappresentati anche a fronte del governo da un fronte di categoria forte e realmente combattivo. Perché non abbiamo altre risposte a questo, così come avremo grandi difficoltà a riprendere quando ci faranno riprendere. Sì. E questo perché non abbiamo avuto aiuti, perché abbiamo avuto delle promesse che non sono state mantenute, delle promesse numeriche di rimborsi al 70% per le spese sostenute per l'adeguamento Covid. Non è vero, è andato il 10%, abbiamo avuto delle altre rimborsi sul fatturato del mese di aprile del 2019 in percentuale minima, quando il mese di aprile per i centri sportivi è storicamente un mese morto, senza poi considerare marzo, senza poi considerare maggio. Chiaro. No, ma vedremo. Facciamo così, Luca Sacchi, ci aggiorniamo se ci sono delle novità che sono forse in arrivo questo fine settimana. Io ripeto, meditate soprattutto, cari ascoltatori, sul messaggio che ci ha detto Luca Sacchi, l'importanza dello sport, ma non dello sport come i campioni come Luca Sacchi, anche dello sport a livello amatoriale, dilettantistico, quelli che si mantengono in forma per tutta la vita. Se non si capisce l'importanza del benessere che dà dal punto di vista fisico e psicologico quella cosa lì, e va bene, allora consideriamola superflua, come gli spettacoli di maniera, come i teatri, come i cinema, come tutto, e chiudiamo tutto, e va bene, si può fare. Caro Leonardo, tu una volta nuotavi tantissimo. Volevo chiedere a Luca Sacchi, siccome io nuoto, ma nuoto male. Vabbè, ma forse quando vado in piscina è ancora con noi. Vuole il consiglio, Luca Sacchi, vuole il consiglio dal maestro. Dai, dimmi Leonardo, vai. Chiedi il consiglio. Qual è lo stile di nuoto migliore per distendere la colonna vertebrale? Ecco. Qual è? Luca Sacchi, forza, consulenza gratuita. Dorso, per maniera sicuramente il dorso. Dorso. Anche perché dorso. È uno stile, stile libero non va bene, perché col viso in aria e meditare sull'esistenza. Ah, ecco, col viso in aria. Quindi dorso, lo stile libero non va bene, chiede maniera. No, andrà bene, non so, Sacchi, va bene. Lo stile libero va benissimo, però come in tutto ovviamente il gesto deve essere compiuto bene, per cui l'altra maniera è atteso in DDS per una lezione offerta dalla casa. Perché io non so se nuoto bene, perché quando nuoto il bagnino mi guarda e scuote la testa. Questo è un fare comune, è una sorta di gesto della categoria. Attenzione, ecco, arriva l'altra consulenza gratuita da un ascoltatore. E per appiattire la pancia, qual è? Ma intanto fate nuoto, vabbè, c'è uno stile che serve ad appiattire la pancia più degli altri, Luca Sacchi. No, quello non esiste. Però l'importante è che si faccia, che si faccia nuoto, che si faccia un altro sport, che si faccia. Perché è una cosa meravigliosa vedere i bambini che escono dalla piscina o trovare gli anziani che imparano a nuotare magari a 75 anni. Sì, è meraviglioso e ci si mantiene in forma. Grazie Luca Sacchi, dobbiamo andare con un pochino di ritardo alla borsa. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. 1, nessuno, 100 Milan. Alessandro, sei un viziosetto, hai già immaginato dei festini bondage con il Miccio De Bori. A tutti gli italiani, non andate vicino alla Maria, alla signora Maria senza mascherine. Puntatona mistica oggi, Milan. Anche Giuseppe Maria abbiamo. Milan, ce l'hai ancora quella signora che faceva la sigla quando tu trasmettevi dalle 6:30, quando facevi 24 mattina, che diceva: Milan, come leggi i giornali lui? Dai, faccela risentire, è fantastica, era una mascotte. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. L'abbiamo rispolverata! Sentite che bella sigla avevamo anche. Leonardo, immaginati alle 6:30 questa sigla. Oppure la borsa. Preferisci quella della borsa? Comunque, senti, Carmelo, vai. Sembravamo usciti da un da un jazz club alle 5 di mattina, peraltro siete usciti e senza andare a letto. Stai dando una grande notizia in qualche modo, che torni a fare la rassegna stampa al posto di Simone Spezia la mattina. Assolutamente no, lasciamo Simone Spezia, che è molto meglio di me. Volte mi hai è detto molto che più hai contento. Questo desiderio mi hai detto che vorresti tornare a fare la rassegna stampa alle 6:30. È inutile, poi devo fare con Alessandra Scaglioni quello che faresti tu con le pistolettate e poi dopo non mettiamo in mente idee che nessuno ha in mente. Ho sentito dirlo, mi piacerebbe tornare alla rassegna stampa alle 6:30. Giustamente ci dicono cos'è il Miccio De Bori, come, anzi l'ho detto in un modo storpiando, il Miccio De Bori è il nerbo del bue fatto a bastone, è un bastoncino di quelli proprio ma pare che intinto nell'aceto soprattutto. Sì. Se ti percuote, quindi voi immaginate la signora Maria che scende per andare a messa alle 6:30 e si trova di fronte a uno stuolo di, in genere, ragazzi, ragazzini con le mascherine a collana, come dice lei, che ostruiscono il passaggio, sono lì tutti a fare assembramento e lei passa col Miccio De Bori. Suggerirebbe una bella passata di Miccio De Bori in loco. In loco, cioè mica andiamo a fare tante discussioni. Lì, sul posto, pam, devo andare a messa. Non è male. Sono curioso, secondo te l'appello di Chiara Ferragni e di Fedez ai ragazzi a usare la mascherina avrà effetto oppure sarà un appello che cade nel vuoto? Ma sai che l'hanno criticato Conte, io invece dico che ha fatto una cosa assolutamente giusta, ma se noi siamo dei vecchi e non arriviamo a delle generazioni, sai cosa ti dico? che ieri stavo guardando, credo, Lilli Gruber, e ne parla, si dice che c'era Razzolini, cioè, no, lo guardavo perché c'era il nostro Sebastiano Barisoni, cioè quello lì in religioso ascolto del nostro direttore esecutivo. E annuendo ogni volta Barisoni. Che parlava dicevo bravo, bravo, bravo. In Italia siamo veramente in una situazione delicata. E un semplice gesto con quello di mettere la mascherina. E secondo me, gli hanno chiesto questa cosa, ha fatto bene. E sai cosa c'era mia figlia lì? Ha detto, ah sì, Fedez, oggi la mia professoressa ci ha spiegato di questa cosa di Fedez e della Ferragni. Quindi arriva questo messaggio ai ragazzi che altrimenti non leggono, lo dico, mi dispiace, i quindicenni non leggono il Sole 24 Ore. No, ma al di là del Sole magari non ascoltano così le raccomandazioni dei vecchi, quindi magari chi lo sa. Mi chiedo solo se Chiara Ferragni e Fedez abbiano questo appeal sui più giovani. Era la voce, ecco, che avevamo sentito era proprio di Chiara Ferragni, no? Rimandala adesso, Carmelo, con un cenno del sopracciglio. Siamo veramente in una situazione delicata e un semplice gesto come quello di mettere la mascherina può veramente far sì che non si verifichi lo scenario peggiore. Diciamo che arriva sicuramente più che un appello fatto da Leonardo Manera e Alessandro Milan alle generazioni di quindicenni, sedicenni, diciassettenni, diciottenni. Io comunque manderei anche Barisoni che parla, così puoi annuire mentre parla. Ma non so se abbiamo un audio di Barisoni che parla ieri dalla Zolina, ma io ero a casa e dicevo bravo, bravo direttore, bravo, bravo, bravo, assolutamente bravo. Oh, facciamo questo piccolo annuncio. Non ci siamo dimenticati dell'invito a fare uno spettacolo dalle parti di Bassano del Grappa con Stefano Geller, il nostro amico. Sai che ci sono arrivate tante proposte, le stiamo esaminando. A una proposta abbiamo detto guardate, ci sembrano un'organizzazione molto seria che stanno cercando di mettere in piedi questo spettacolo. Ora ovviamente la situazione non è delle migliori, lo sappiamo anche noi, per gli spettacoli, per gli assembramenti, per il pubblico. Leonardo, cercheremo di fare tutto mantenendo questa promessa il più presto possibile. Però, come dire... Tu hai fissato la data, il 5 dicembre, giorno del tuo compleanno. No, non ho fissato la data. Il 5 dicembre è sabato, quest'anno compio 50 anni, avevo in mente farò una gran bella festa. Ma ecco, il gesto di Carmelo Lauricella in regia, che non si può mostrare, era il gesto dell'ombrello, grazie ai miei 50 anni, alla mia festa, è stato fatto da Carmelo Lauricella. Poi una festa in videoconferenza, cioè tutti gli invitati in qualche piattaforma. A proposito di videoconferenza, ma l'hai vista quella del consulente della CNN in diretta su Zoom in una riunione? Pensava di non essere visto dagli altri e si è... Non ho visto. Questo va detto, e tutti gli altri hanno assistito a questo atto di questo sessantenne. Ma dico, ma porca miseria, ma certo, aspetta la adesso... fine della riunione, cioè, voglio dire. No, ma veramente ci sono dei geni. Io anche se lo volessi fare, ma non appunto... mi verrebbe il dubbio di essere comunque, almeno che lui l'abbia fatto apposta, forse gli piace l'idea di essere visto mentre lo fa, probabilmente così. Non lo so, è stato licenziato. Sta di fatto che, come mai non ti vediamo noi in video da casa, Leonardo? Dati delle risposte. Infatti, non lo so. Vabbè, questo consulente. Vabbè, dai, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, signori, siamo qui a concludere questa puntata in questo momento importante per il paese. Noi siamo contenti che torni con noi il ministro Bonetti. Buongiorno ministro, grazie. Buongiorno, vi ringrazio per l'invito, è sempre un piacere essere presente in questa radio così importante. Grazie. La radio del Sole 24 Ore, grazie per l'invito. Grazie ministro, a lei perché è tornato per completare il pensiero e quindi le vogliamo porre qualche domanda. Ministro, senta, il governo come intende dare sostegno alle categorie che più di altre risentono della crisi economica causata dal virus? La ringrazio per la domanda. Per prima cosa vorrei precisare che noi non lasceremo indietro nessuno, perché dobbiamo vincere la sfida della ripartenza alla luce di un'attenta e realistica considerazione del delicato equilibrio sul quale si regge il presente, da valutare sulla base dell'esperienza pregressa, senza però dimenticare una verosimile e auspicata evoluzione verso una situazione più articolata che porti all'endorsement di una certa classe politica che possa fungere da benchmark. Scusate, partita. Con questo cosa voglio dire? Che la misura ha un senso soltanto se si intende conservare la prassi dei nominati, ripristinando la puntuale corrispondenza tra obiettivi e risorse attraverso l'adozione di una metodologia differenziata. Senta, scusi, le do del lei, ministro, ma a livello pratico cosa farete, non so, ad esempio per sostenere il turismo, ecco, cosa farete? Ma il tema non è sostenere il turismo, semmai occorre capire come sviluppare un modello che estrinsechi il superamento delle resistenze in campo, al di là della fattibilità delle premesse iniziali, che possono condizionare la rivalutazione delle discrasie esistenti. Perché se... Niente, che succede? Vabbè. Implicito, con le imprescindibili eccezioni del caso, un appianamento delle discrepanze, però è altrettanto vero, ci tengo a dirlo con forza, che la nostra priorità deve essere oggi più che mai ascoltare le esigenze di chi chiede una continuità economica e noi siamo qui ad ascoltare proprio queste esigenze con tutta l'attenzione possibile. Senta, ha ragione, va bene. Un'altra categoria, i ristoratori. Pensiamo ai ristoratori che hanno davanti mesi difficili. È una categoria che ci sta molto a cuore. È una categoria che ci sta molto a cuore, sì. Quindi? Ma allora, il tema non è innanzitutto dove andare a mangiare, perché in Italia si mangia bene dappertutto. Il cibo è una delle eccellenze italiane, ricordiamolo. Io sono italiano, amo l'Italia, amo il mio paese e amo gli italiani. Sì. Semmai il tema è che dobbiamo chiederci come possiamo costruire una convergenza partendo dalla costruzione di un quadro di riferimento condiviso. Solo così. Un po' di musica, va. C'è ancora il ministro in linea, sì. Un nuovo assetto sociale capace di includere un soggetto inedito e portatore di un salto di qualità, soprattutto considerando il modello partecipativo come un organismo che persegue un corretto rapporto tra strutture e sovrastrutture. Scusi ministro, mi permetto di dire che non è chiarissimo questo punto, cioè mi sembra un po' un discorso lontano dai cittadini, voglio dire. Non c'è il rischio di non riuscire davvero a capire di cosa hanno bisogno le persone? Ma il tema non è tanto capire cosa hanno bisogno le persone, anche perché possono dircelo su Facebook e noi siamo molto attenti ai social. Semmai dobbiamo tenere un approccio programmatico anche in vista di eventuali peggioramenti della situazione in essere che richiederebbero degli aggiustamenti del disegno sul tavolo con criteri però non dirigistici. Non dirigistici. Di certo. È ancora lì? La nostra intenzione come rappresentanti e come cittadini è quella di non lasciare indietro nessuno, lo ribadisco per forza. Non esiste per noi che qualcuno perda il lavoro e non riesca a pagarsi il pane, che non abbia 27 o 30 o 52 97 euro per pagarsi il pane. Scusi, quanto costa il pane? Beh, dipende, so 3-4 euro al chilo. Ah, quindi lei mi sta dicendo che c'è qualcuno che non ha 3 euro o 4 euro per comprarsi un chilo di pane? Può succedere, non dovrei dirglielo io comunque, dovrebbe saperlo lei, ministro Bonetti. Non... Beh, allora io le dirò che questo con noi non accadrà mmai più per un semplice motivo. E cioè che, ecco, adesso voglio concludere e chiosare quello che ho detto fino ad ora, cioè che la ricognizione della domanda non soddisfatta trova la sua ragion d'essere nel contesto di un sistema integrato. Quindi il tema forte, non è tanto comprare o non comprare il pane, ma comprarlo integrale, che comunque è anche più utile per la nostra salute. E quindi con questo penso di aver risposto a tutte le esigenze dei cittadini italiani in modo chiaro, completo ed esaustivo, ed è per quello che noi siamo qui, per dare risposte, risposte chiare al popolo italiano attraverso, attraverso la nostra azione ficcante per la quale ogni giorno lavoriamo, la ringraziamo per il benessere di tutti i nostri cittadini italiani, dell'Italia. Manda un po' di musica, Carmelo, dai. Grazie. Grazie, chiudiamo con la musica, ringraziamo molto il ministro Bonetti, chiaro, esaustivo, pane integrale, questo è il titolo delle agenzie, pane integrale. A domani. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no alle 17! Nessuno, nessuno, 100.000. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.